Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, la saga si è dunque conclusa. 18 giorni, 4 partite, una vittoria del Real, una vittoria del Real, una del Barça, due pareggi. 3 gol di Messi e uno di Pedro per il Barcellona, 2 gol di Ronaldo e uno di Marcelo per il Real. Prima piccola parentesi, ho sentito a lungo ieri sera molti commentatori autorevolissimi sostenere che Ronaldo è un giocatore che fallisce gli appuntamenti importanti. Ricordo che in queste 3 partite l'unica cosa che il Real ha portato a casa l'ha firmata con un magnifico gol, tra l'altro, Cristiano Ronaldo. Parlando dunque di 2 pareggi, una vittoria del Barcellona e una del Real e di un solo gol di differenza reti, se vogliamo, parrebbe una parità che invece è solo apparente, perché in realtà il Madrid ha portato in bacheca la Coppa del Re, ma il Barcellona, che pure non ha ancora messo nulla in bacheca, ha comunque difeso la Liga, e dove ha 8 punti di vantaggio su 12 ancora in palio ormai, e ha conquistato la finale di Coppa Campioni. Quindi insomma, i 2 obiettivi principali li ha centrati il Barcellona. Alcuni numeri riassuntivi di Franco Piantanida che insomma, mi paiono particolarmente significativi. Allora, nelle 2 partite di Champions, in queste 6 giorni, il Barcellona ha tenuto palla per 79 minuti e 58 secondi, facciamo 80 minuti, il Real per 37 e 16, quindi un possesso palla più che doppio rispetto all'avversario. Ne aggiungo qualcuno legato a ieri sera. 11 tiri, ieri sera la partita è finita in parità, come sapete, ma insomma, mi pare che il controllo del Barcellona sia stato totale, e mi pare che altri 2 numeri siano particolarmente significativi e diano il senso di quello che è stato. Lo dico soprattutto ai molti ascoltatori che, essendo la partita in pay TV, a differenza della settimana scorsa, non l'hanno potuta vedere. Questo l'ho ricavato da molte delle mail arrivate. 11 tiri in porta a 3 per il Barcellona, che pure aveva 2 gol di vantaggio da difendere, e 10 falli commessi dal Barcellona contro 31, 10 a 31 del Real Madrid. Allora, di questi 31 falli, ritorno ai numeri di Franco, e di questi 31 falli commessi al Real, 11 li ha subiti Messi. E questo è un primato di questa edizione della Champions, perché nessuna squadra in questa edizione aveva commesso così tanti falli, 31, e nessun giocatore ne ha subiti così tanti, 11, in una stessa gara. Era il 2008 che una squadra non commetteva così tante scorrettezze in una singola partita, allora toccò al Lione. Pensate che, per dare un'idea della olimpica gestione della partita da parte di alcuni dei campioni del Barça, Piquet, Mascherano e Puyol, che giocavano in difesa fino a prova contraria, ieri sera non hanno commesso un fallo. Ne hanno fatti 2 a testa, Messi, Villa e Pedro. Tra l'andata e il ritorno, Piquet, che a mio modesto parere ieri sera è stato, insieme a Casillas, il miglior uomo in campo, Piquet ha commesso un fallo in 180 minuti giocando da centrale. Da centrale difensivo. Se poi invece andiamo al bilancio totale della stagione, sono 5 le partite che si sono giocate, perché a queste 4 va aggiunto quella dell'andata, il 5-0 famoso per il Barcellona. I gol diventano 9-3 per il Barcellona, cambia completamente lo score complessivo. Questa volta lo Special One ha finito in 11, scrive Massimo Caci, e perché me lo domando io. Se pensiamo a 2-3 giocatori del Real, ma in particolare già nel primo tempo a Riccardo Carvalho, e al fatto che sia stato giustamente ammonito dopo un quarto d'ora scarso e che poi abbia commesso altri 2 falli che avrebbero comportato, uno in particolare, l'ammonizione, effettivamente la domanda è abbastanza legittima. Adesso cosa facciamo? Sentiamo, intanto voi vi prenotate per i vostri interventi in diretta, che non sono tenuti a essere monomaniaci, sia ben chiaro, nel senso che, come sempre, se scegliete altri argomenti siete ben liberi di farlo. Io ho molti messaggi da leggere e ho alcune voci di ieri sera da farvi ascoltare. Partirei comunque dalla cosa più significativa alla fine, no? Visto che poi la partita si è conclusa in un certo modo, io partirei proprio dall'ingresso in campo a un minuto dalla fine dei tempi regolamentari di Abidal, e cioè di questo difensore francese e nazionale francese del Barcellona, che è tornato in campo 46 giorni dopo un'operazione, ma un'operazione molto seria, per niente meno che per un tumore al fegato. Allora, tra le tante mail ricevute dalla nottata in avanti, e queste precedono come sempre i vostri interventi in diretta, ho scelto questa che arriva da Firenze, che è firmata con nome e cognome, ma che si conclude con un "lei capirà se preferirei non essere citato". Lo capisco e come, perché scrive questo ascoltatore: ho seguito gli interventi di questi giorni riguardo ad Abidal, ho sentito toni perplessi e anche preoccupati. Ma io sono stato operato di un tumore anche peggiore 4 mesi fa, scrive questo ascoltatore. Ho 47 anni e non sono certo un atleta. Mi sono rimesso in fretta e chi mi incontra non crede che io sia malato. Capirà lei dunque perché quel che mi pare più significativo della partita di ieri è stato l'abbraccio finale ad Abidal da parte dei suoi compagni di squadra. Molti tumori ormai sono guaribili o comunque controllabili, e questo è dovuto ad anni di ricerca, di lenti e inesorabili progressi. La foresta che cresce e non l'albero che cade. In Italia e nel mondo esistono ormai molti buoni centri da sostenere o perlomeno da ricordare. Sono sicuro che nella trasmissione di oggi lei saprà trovare parole migliori delle mie per far passare questo messaggio. No, caro, non dico nemmeno il nome di battesimo, no, caro ascoltatore, io non so trovare davvero parole migliori di quelle che lei ha scritto in questa mail, di cui la ringrazio a nome anche di tutto il pubblico affezionato che è in ascolto. Il bilancio di Pep Guardiola. Bene, stiamo parlando della semifinale della Champions League contro l'equipo più ricco, più poderoso del mondo, quelle che ci sono 7 centravanti che fanno paura. Noi sapevamo che aveva un buon risultato l'andata, ma avevamo giocato il ritorno e dovevamo giocare con moltissima, moltissima testa. Noi siamo felicissimi per riuscire per la seconda volta in 3 anni a arrivare alla Champions League, l'anno scorso a arrivare in semifinale contro l'Inter, quindi portiamo 3 anni a un'altezza incredibile. No, voi lo conoscete meglio che io, ho stato 2 anni con voi, qua è il primo anno, quindi lo conoscete meglio. Lui è un allenatore più forte del mondo, siamo orgogliosi di aver lottato contro di loro. In campionato siamo vicinissimi per essere campioni, ci mancano 4 punti da 12 per giocare e siamo arrivati alla finale Champions League. Per noi è una grande gioia per questa società, con 14 ragazzi del settore giovanile da piccoli che abbiamo riuscito a portarlo in prima squadra. È un lavoro di tanta tanta gente e tanti tanti tanti anni. Aggiunto ancora un'altra cosa, poi Guardiola, oltre a quelle già mi sembra molto significative che abbiamo ascoltato, se credono anche stasera che ci sia stata un'incidenza arbitrale, io non posso farci niente. Ricordo solo che quando abbiamo perso noi 2 settimane fa in Coppa del Re ci siamo limitati a fargli i complimenti. Primo intervallo, strade. Sono Sandro da Udine, un messaggio appena arrivato, volevo un suo commento sul fatto che Mourinho avrebbe fatto il gesto del furto in aeroporto quando lasciava Barcellona. È vero, dal sito di Marca si ricava che tanto Mourinho come Cristiano Ronaldo, provo con una traduzione simultanea, hanno dimostrato, sia Mourinho che Ronaldo hanno evidenziato tutta la loro rabbia e l'impotenza contro il Barcellona. Le immagini di queste riprese non danno margine a dubbi. Il Real è indignato per aver soltanto pareggiato questa partita al Camp Nou, e tanto Mourinho come Cristiano Ronaldo lo hanno mostrato con gesti eloquenti, con un gesto da furto, con la mano che ruota, no san robado, ci hanno derubati, la sintesi di questi due gesti. Lei chiede un mio commento, lo affido a Marco Traversi, che è un fedelissimo, come ormai credo saprete, dell'ascolto, del blog e di tutto il resto, che dice: nella manina rotante di Mourinho, volta a indicare il furto subito, sta tutto il mourinismo. Del resto, non potendo mostrare una manita come il Barça all'andata, ci si arrangia come si può. Il Real ha visto palla solo al calcio d'inizio dei due tempi, è stato poco pericoloso, molto attento a picchiare. Casillas ancora una volta sugli scudi. Il Real Madrid non merita questo scempio. Ma questo sta cominciando a diventare l'opinione anche di parecchi editorialisti spagnoli, ma soprattutto di parecchi editorialisti madrileni. Poi va detto che non si sono coperti di gloria ieri sera alcuni tifosi ultra, forse è una parola eccessiva, perché da quelle parti, se ce n'è, ce n'è davvero pochi, però si sono comunque segnalati, perché ci sono stati una ventina di arresti tra ultra e Barcellona, chiamiamoli pure così, e circa 24 feriti dopo le celebrazioni della vittoria, che sono durate praticamente per tutta la notte. Molti erano ubriachi, a quello che si legge nel prosieguo di questa agenzia. Vedo già molti ascoltatori collegati. Io credo di voler sentire però prima ancora una volta un altro frammento di Guardiola, che in questo caso ricambia Roberto Baggio. Perché? Perché Baggio aveva detto ben prima di questa partita e di questa sfida finale di essere un suo tifoso, cioè che avrebbe fatto il tifo per lui, e sentire come ha risposto Guardiola. È un amico, e quando uno è un amico, quando Robby un giorno forse allena una squadra, io sarei tifo di quella squadra. Uno c'è una piccola tifoseria, che è quella che uno sente, ma poi tutti quegli amici che sono in altre squadre e le vuoi bene, uno si diventa tifosi. Quindi gli ringrazio tante le parole e vediamo se lo posso abbracciare presto. Io credo che fosse abbastanza chiaro questo spagnolo, ma in ogni caso la frase clou è: quando Robby Baggio diventerà allenatore, io tiferò per lui. La lettera, la mail che ho letto prima di quell'ascoltatore fiorentino ha suscitato, come immaginavo, qualche reazione. Allora, Daniele scrive da Varese: non lo conosco, non avrò forse mai il piacere di farlo, ma dica a quell'ascoltatore che da oggi ha un tifoso in più. Mentre Mirko scrive: fossi in lei, quella mail dell'ascoltatore operato di recente l'archiverei tra quelle speciali e la leggerei ogni tanto con gli energumeni che si avvelenano di sangue ogni lunedì discutendo di un rigore in più o un rigore in meno. Silvano ha chiamato da Brescia, buongiorno. Ma io volevo parlare un po' ho letto qualche commento sul suo blog stamattina, poi seguo degli altri blog di calcio e tutto quanto, ho visto un sacco di livore. Più che altro ci sono tanti tifosi dell'Inter che si sentono in qualche modo defraudati e che qualcuno possa mettere in dubbio la vittoria dello scorso anno. Io personalmente credo che io sono un tifoso del Milan, se fossi un tifoso dell'Inter io sarei abbastanza contento del fatto che Mourinho sia stato bastonato ieri sera, perché un allenatore che fugge nella notte, giorno del trionfo atteso da 45 anni, che nel momento in cui viene chiesto anche il risarcimento per il ricordo del contratto dice: ma come, vi ho fatto vincere la Coppa dei Campioni, dimenticandosi che nel DNA di quella squadra ci sono delle vittorie all'estero fondamentali, importantissime, quindi ci tratta quasi come se fossimo degli sciacquini. E poi tutto quello che è successo non lo so, cioè, ecco, al di là della giusta riconoscenza, io come milanista sono stato riconoscente a Ancelotti, però nello stesso tempo il fatto, cioè, mi spiace che Ancelotti l'ha perso, sarei stato contento se avesse vinto, però non è che mi sarei buttato su un blog a difendere la spada tratta a quel modo, insomma, ecco, l'ascolto per radio. Silvano, grazie. Guardi, il problema di Mourinho, quando inevitabilmente, secondo me è uno dei problemi di Mourinho, è che il suo ego, il suo superego smisurato, gli pone sempre un problema preventivo, che è quello immortalato stupendamente da Nanni Moretti. Allora, facciamo il caso di ieri sera. Mi si nota di più se resto in albergo o se vado in tribuna al Camp Nou, visto che sono squalificato. Secondo me, essendo un grande stratega di comunicazione e avendo probabilmente uno staff che gliela cura questa comunicazione, si è dato la risposta che sarebbe stato notato di più se restava in albergo, per la semplice ragione che nessuno era mai restato in albergo. Io credo che la stessa cosa se la sia posta lo scorso anno. Perché? Perché alla fine di una coppa vinta e pensando prima a come agire, no? Perché quando poi i comportamenti li li gestisci prima e li immagini prima e soprattutto li pianifichi prima, poi non è difficile applicarlo. Cioè, se l'Inter vincerà la Coppa dei Campioni dopo 45 anni in questa finale con il Bayern, mi si nota di più se io torno a San Siro con tutti gli altri oppure se non ci torno e non salgo nemmeno sul pullman e al massimo scendo per abbracciare Materazzi, che è tanto un fotografo che ci becca in lacrime, ci sarà nei paraggi. Io credo che questa sia la spiegazione del personaggio. Francesco Roma, buongiorno. Buon pomeriggio. Dica. Volevo tornare a parlare un po' di calcio, soprattutto sulla distribuzione dei falli ieri sera da parte dei giocatori del Barcellona. Se i centrali, i difensori del Barcellona, Piquet, Puyol e Mascherano, non hanno fatto alcun fallo e i falli risultano anche fatti da Messi, Pedro e l'altro attaccante, Viglia. Esatto. Significa che c'è una grande dedizione feroce di andare a prendere la palla nella metà campo, certo, avversaria, certo. Cioè alla fonte del gioco avversario, e quindi una grande umiltà da parte di questi giocatori, tipo Messi, cioè il più grande giocatore attualmente sui campi di calcio, che si sacrificano. Sacrificano totalmente per il gioco che vuole Guardiola. Per andare a attaccare l'avversario non appena gli capita, abbastanza raramente, di perdere palla. Esatto. Posso dire un'ultima cosa? No, ne dica pure ancora, se si parla di pallone lei è benvenuto. Sì. No, un post-scriptum sulla grandezza, diciamo, umana di Guardiola. Baggio rientrava al Brescia, Baggio rientrava dopo un lungo infortunio, Guardiola era capitano. Dal momento in cui Baggio è entrato, lui gli diede la fascia di capitano, e quindi significa una grande ricchezza umana da parte di questo allenatore, nonché una grande preparazione tecnica, e questa è sotto gli occhi di tutti. Non c'è nessun dubbio, Francesco, grazie. Non dimentichiamo che Guardiola nel Barcellona è stato il predecessore di Xavi. Poi è stato un grande giocatore, intendiamoci, è stato un campione, è stato un nazionale, è stato lo Xavi di un tempo. Poi Xavi è andato oltre, no? almeno a mio parere, però insomma, quando uno è un grande giocatore ed è una persona di quel genere, secondo me è abbastanza più facile arrivare vicino al massimo, no? E mi pare che Guardiola ci sia discretamente arrivato. Giuseppe, ah sì, certo, mi era sparito un attimo dal display, per fortuna dalla regia Pietro se ne è accorto, e c'è Giuseppe in linea da Milano. Buongiorno. Buongiorno, sono Canzini. Dica. Senta, io volevo forse andare un po' controcorrente. Vada. No, nel senso, a parte gli elogi del Barcellona, ha meritato di vincere, però secondo me ci sono modi diversi di vedere anche il calcio. Esempio, a me tutta quella serie di passaggi di far Barcellona, dico la verità, non mi piace. Ma io lo capisco. Cioè, io capisco le verticalizzazioni, veloce, andare in porta, gol, cioè non so come dire, a me non mi diverte. Ma io, guardi, resti in linea, perché poi le faccio solo una piccola osservazione. Io rispetto, non condivido, perché a me invece piace questo tipo di calcio, però io rispetto questo. Sentivo Vialli ieri sera più o meno dire la stessa cosa, e cioè che questo calcio è talmente perfetto che finisce per diventare stucchevole, e capisco bene quello che dice, per cui non è affatto, non è controcorrente, è un altro modo di vedere le cose. Cioè, voglio dire, a me piace la lirica, ma non per questo non capisco che uno diventi matto per il rock piuttosto che per la canzone d'autore, o piuttosto per quello che, no? Le pare? No, perché sono piccolini e forse è l'unico gioco che posso fare, non lo so, però non mi diverte vederlo, giuro. No, va bene, ma non è reato. A me io invece trovo, proprio nel fatto che siano piccolini, che siano dei nanerottoli, e che tre persone di normale statura, la statura di oggi, e cioè Busquets, Piquet e un altro che adesso mi sfugge, che sono sul 1,84, 85, 86 circa, sembrino dei giganti in mezzo della gente che fa fatica ad arrivare a 1,70, non a 1,80. Però il fatto che 6-7 giocatori nati in quella masia, come ieri mi ha insegnato a pronunciare un ascoltatore da Memphis, se ricordate, nati in quella masia, nascondono la palla a quella maniera, con una disinvoltura tecnica di base e poi una preparazione tattica pazzesca addirittura, giocando nonostante un fisico davvero, come dire, tutt'altro che imponente, cioè giochino solo di talento, solo di tecnica e di tattica e non certamente di fisico, io lo trovo invece un motivo di fascino in più. Ma ripeto, questi sono nient'altro che gusti. Facciamo un intervallo, sì, e andiamo a sentire come va sui mercati. Alcune mail arrivate nel frattempo hanno fatto il segno del furto, perché in effetti quelli del Barça gli hanno rubato il pallone, scrive Denis Cancianda da Conegliano. Mi meraviglio, scrive Marcello Manna, che come nessuno abbia fatto notare nei commenti in rinvio, anzi il passaggio perfetto di 40 metri del portiere del Barcellona in occasione del gol di Pedro. È vero, ha rinviato di prima, di interno, morbido, per Dani Alves a destra, un altro degli stramigliori in campo. Dani Alves ha fatto il suo tratto di strada sulla sua corsia, l'ha messa dentro a Iniesta e Iniesta ha trovato il corridoio per Pedro. È andata così. Giovanni Maffezzoli scrive da Mantova: quando lei parla di Messi non parla da giornalista ma quasi da uno zio il cui nipote gli sta dando grosse soddisfazioni. Beh, un nipotino come Messi in effetti non mi dispiacerebbe, e questo, bontà sua, è molto bello in tempo di sport prigioniero di ipocrisia e maleducazione. Ma io vorrei anche segnalare, grazie Giovanni, al suo pubblico che 101 anni prima che nascesse Lionel Messi, da Recanati partì Giuseppe Messi alla volta di Rosario, e i recanatesi, che già sono orgogliosi del loro sommo poeta Leopardi, hanno un motivo d'orgoglio in più, perché un altro lontano discendente della loro terra fa poesia non in versi ma con il pallone. Bravo Giovanni, grazie della segnalazione. In effetti è un rimando, insomma, molto molto lontano, ma qualcosina qualche goccia di sangue italiano nelle vene di questo fenomeno effettivamente c'è. Però poi c'è, tra le tante mail, e chiedo un attimo di pazienza a chi è già in attesa, ce n'è una di Roberto Virgini da Firenze. Firenze è la mail che vuole riascoltare, che insomma si fa interprete di molti sms che ho ricevuto e che vorrebbero riascoltare la mail di quell'ascoltatore fiorentino che ho letto all'inizio. Lo faccio questa eccezione molto molto volentieri. Ha scritto questo signore da Firenze: ho seguito gli interventi riguardo ad Abidal, ho sentito toni perplessi e anche preoccupati, ma io sono stato operato di un tumore anche peggiore 4 mesi fa, ho 47 anni e non sono certo un atleta, mi sono rimesso in fretta e chi mi incontra oggi non crede che io sia malato. Capirà dunque perché quel che mi è parso significativo della partita di ieri sia stato l'abbraccio finale ad Abidal da parte dei suoi compagni di squadra. Aggiungo tra parentesi che oltre ad abbracciarlo l'hanno levato e buttato al cielo, come si fa con i toreri in Spagna, no? Cioè noi facciamo ogni tanto con gli allenatori, ma in Spagna lo fanno in maniera anche più spettacolare e sono abituati a fare così con i grandi toreri. Scrive ancora questo ascoltatore: molti tumori ormai sono guaribili o comunque controllabili, e questo è dovuto ad anni di ricerca, di lenti e inesorabili progressi. La foresta che cresce e non l'albero che cade. In Italia e nel mondo esistono ormai molti buoni centri da sostenere o perlomeno da ricordare. Sono sicuro che nella trasmissione di oggi lei saprà trovare parole migliori delle mie per far passare questo messaggio, e capirà se preferirei che lei non mi citasse con il nome e cognome. E si firma. Avevo detto prima e ripeto adesso che parole migliori di queste, sinceramente, non sono in grado di trovarne. Nippi, leggo bene da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno signor Ganzini, complimenti. Dica. Cerco di essere breve. Sì? Breve. Se non sbaglio, il Barcellona è 20 anni che cerca di arrivare al successo, cioè in senso a fare questo gioco meraviglioso, no? Per tempi di Cruyff. Beh, anche di più. Anche di più. Sì, allora mi viene spontaneo il paragone. Cioè, con Mourinho, perché ce l'avete così tanto con quest'uomo? Se fosse stato un comandante di un esercito, Bin Laden l'avrebbe preso il giorno dopo. Barcellona ci ha messo 30 anni. Quest'uomo, io sono giovane, sì. da quando fa allenatore, subito nei primi anni, insomma, ha vinto subito. C'ha un suo modo di giocare, però... secondo me penso che è un uomo di campo e nient'altro. Grazie a lei, Nif. No, ma certamente è anche un uomo di campo. Io lo trovo soprattutto un uomo di comunicazione, di immagine e di avvelenamento dei pozzi, come ho sempre sostenuto. Le critiche tecniche che oggi gli rivolgono, tecniche e tattiche che oggi gli rivolgono in Spagna, possono essere condivise o meno. Io credo che nella partita di andata Mourinho non avesse schierato il miglior Barcellona possibile, il miglior Real Madrid possibile. Credo che in quella di ritorno invece il Real, che è inferiore complessivamente al Barça, comunque abbia dato una sensazione diversa. Credo anche che con caratteristiche completamente differenti di quella a Barcellona, e cioè non i solisti al servizio di un'idea come è il gioco del Barcellona invece, ma i solisti al servizio di se stessi, o meglio la squadra al servizio dei solisti, io credo che il Real sia comunque una squadra di ricchissima di talento. Basterebbe la giocata di ieri sera, la tripla giocata di ieri sera di Di Maria, quando arriva il gol del pareggio di Marcelo. Di Maria fa un dribbling strepitoso al limite dell'area, un dribbling sull'esterno, due passi, carica, e prima grande giocata, carica e prende il palo, seconda eccellente giocata, terza giocata perfetta, è lo stop perché la palla gli torna dal palo violentissima, la doma in una frazione di secondo, la mette giù e la taglia in mezzo esattamente sul passo di Marcelo, che infila l'1-1. Questo è Di Maria, ed è lo stesso che aveva imbastito l'azione magnifica, strepitosa, del gol vincente di Ronaldo nella finale di Coppa del Re. Allora, le ho citato Cristiano Ronaldo, ho citato Di Maria. Se vuole che andiamo avanti con giocatori di grande nome, di una squadra che costa molto, ma molto di più di quanto non costi il Barcellona, che ha una panchina strepitosamente più ricca e più cara, che ha un portiere che, se non è il numero uno al mondo oggi, è certamente nei primi tre, Iker Casillas, e che è stato il segreto della vittoria in finale di Coppa del Re e la ragione per cui la partita di ieri sera, insomma, per un po' è durata, perché sennò finiva molto prima. Io, mettendo insieme tutte queste cose, penso che insomma, i fatti parlino per un testimonio della superiorità di una squadra rispetto all'altra. Dopodiché, se ogni tanto capita di mancare un po' di rispetto a Mourinho, questo nasce dal fatto che ha certamente cominciato Mourinho a mancare di rispetto al calcio e a chi se ne occupa da tanto tempo, e ai suoi avversari e alle persone che comunque in qualche maniera hanno la sventura di attraversargli la strada. Mauro, provincia di Biella, buongiorno. Buongiorno, sono Garanzini. Dica. Vi rubo solo pochi minuti per cercare di spiegare perché a me il gioco del Barcellona piace molto. Sì. Io non sono un grandissimo appassionato di tifoso di calcio, mi piace vedere delle belle partite. Sono molto appassionato di musica invece, credo che una bella partita sia un po' come una bella canzone, non c'è bisogno che sia tutta fatta di virtuosismi, perché sennò stufa, però se all'interno di un brano ci sono dei virtuosismi, ci sono dei pezzi emozionanti e belli, questo appassiona. Certo. Il gioco del Barcellona è un po' così, quando fanno i passaggetti a centrocampo sembra un po' fermarsi, però poi la stessa precisione che mettono a fare i passaggetti a centrocampo la mettono quando verticalizzano. Certo, e vedere perché, come si trovano all'interno dell'area di rigore. Ha ragione Mauro, perché i famosi passaggetti a metà campo in realtà sono sono la preparazione, sono la ricerca dello spazio migliore, del tempo giusto per uscire. In questo un giocatore come Xavi, ma anche come Iniesta, ultimamente anche Busquets, ma soprattutto i primi due, i due nanerottoli, sono assolutamente fenomenali, perché Xavi per esempio ieri sera su quel campo, e lo stesso Iniesta, ma più Xavi ancora, credo abbia forse ha perso un pallone, ne avrà toccati centinaia in quella partita, sempre giocandoli al limite, perché è chiaro che quel gioco consiste nell'attirare l'avversario e la palla nello scaricarla in tempo, un attimo prima di prendere, ora randellata, e con il Real qualcuno l'ha presa perché è inevitabile, ma peggio ancora un attimo prima di perderla la palla, perché vuol dire che ti partono in contropiede verso la tua area e ti beccano la difesa scoperta. In questo io credo che questo gioco preparatorio per i miei gusti e anche per i suoi evidentemente è affascinante, per qualcun altro invece è noioso. Insomma, ripeto, ciascuno ha i suoi gusti. E i gusti del pubblico del Barcellona ieri sera non mi sono dispiaciuti per nulla, perché quelli del Barça hanno, questi catalani hanno il gusto dello sfottò in una certa maniera. Allora sentite un po' gli olé olé con cui loro accompagnano in genere, no? Il possesso palla, diciamo pure la melina del Barça. Sentite ieri sera che cos'è diventata a un certo punto. Questo era un inizio, perché in effetti non è un coro così possente. Poi alla fine è diventato un coro di 100.000 persone. Non olè, ma perché? Per fare il verso al Cialtruan. Bella domanda quella che arriva da Roberto da Torino. Non inedita, ma molto bella. Lei ha una spiegazione sul perché l'altro anno Guardiola avesse voluto Ibra a tutti i costi. Cosa voleva farne? Bella domanda. Andrebbe rivolta a Guardiola. Io posso pensare che lui volesse aggiungere chili, innanzitutto chili e stazza fisica, dunque, a un attacco di nani. E penso anche che avesse sopravvalutato Ibrahimovic nella capacità di giocare di prima, cioè di fare come dire il pivot che fa sponda immediata. Ibrahimovic di prima gioca il meno possibile. Probabilmente Guardiola pensava di insegnarglielo, o comunque lo ha sopravvalutato da quel punto. In ogni caso poi si è rivelato incompatibile e forse contemporaneamente Guardiola ha capito che Messi gli ha detto che lui, sia pure con quel fisico incredibile, giocava più volentieri da centravanti, poi alla sua maniera, ma voleva spazio, voleva aria in mezzo al campo per andare dentro lui, e a quel punto tanto voleva farglielo, no? Con lo spazio, trattandosi di un certo Leo. Anche oggi un Nicola Filippone in forma barcellonista ha trovato una data dello sport estremamente significativa e legata all'attualità. Sembra ieri. 4 maggio 1960. Dopo aver vinto la prima edizione della Coppa delle Fiere 2 anni prima, il Barcellona si aggiudica anche la seconda, piegando il Birmingham al Camp Nou per 4-1 nella finale di ritorno. È una stagione eccezionale per i Blaugrana, che conquistano anche la Liga beffando il Real Madrid per differenza reti. Tra gli artefici dell'esaltante doblete, gli ungheresi Laszlo Kubala, Sandor Kocsis e Zoltán Szibor, il centravanti di origine paraguayana Eulogio Martínez, Luisito Suárez e il tecnico Elenio Herrera. Ma l'allenatore ha deciso di lasciare la Catalogna. Il presidente dell'Inter, Angelo Moratti, ne è rimasto stregato dopo aver visto il Barcellona dominare i nerazzurri proprio in quell'edizione della Coppa delle Fiere. Beh, capite che andare a pescare in questa data un evento di questo genere, e tra l'altro citare nomi che poi hanno fatto le fortune del calcio di club italiano, l'Inter in questo caso, come Herrera e Suarez, però anche ripassare il fatto che ci fu in quegli anni il saccheggio da parte dei club spagnoli, il saccheggio inevitabile degli ungheresi, della grande Honved, perché così come Puskas andò a giocare nel Real Madrid, Kocsis e Szibor, altri due dei grandi di quella Honved e di quella nazionale ungherese, andarono invece al Barcellona, e quindi insomma quarti di nobiltà lontani di queste squadre. Poi è ovvio che il 4 maggio non può passare senza che ci sia un ricordo che Nicola Filippone non può ripetere ogni anno, evidentemente un ricordo del grande Torino, perché è la data dell'anniversario della tragedia di Superga, che quest'anno suona leggermente più triste ancora, perché uno dei due superstiti di quella tragedia se n'è andato nei giorni scorsi. Si chiamava Renato Gandolfi, era il secondo portiere del grande Torino, alle spalle di Bacigalupo, e come mi ha segnalato Paolo Camalic, un ascoltatore di Sestri Levante molto, molto affezionato, questo secondo portiere Renato Gandolfi è scomparso pochi giorni fa a Nervi, dove viveva da sempre, dove frequentava gli appuntamenti dei fedelissimi Granata del Golfo del Tiguglio, leggo una sua mail di qualche giorno fa, e ha passato gli ultimi, ma forse gli ultimi decenni della sua vita, nel rimpianto e quasi nel rimorso, mi ha scritto questo ascoltatore, di non essere lassù insieme ai suoi amici e ai suoi compagni di squadra. Angelo Pescara, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io ascolto tutti i giorni, grazie per avermi chiamato. Sì. Senta, io volevo dire che secondo me, siccome non tutte le partite finiscono con chi è più forte, se non, noi non vedremo il calcio, proprio per questo il Barcellona è più forte del Real Madrid. Però secondo me la strategia di Mourinho era quella giusta, perché adesso lui dice che c'è stato un furto, ma secondo me dal suo punto di vista tutto questo è giusto. Se noi vediamo le due partite, sullo 0-0 il suo risultato ottimale della partita di andata, gli è stato espulso un giocatore ingiustamente. Questo lo dice lei, eh? No, questo è un mio parere, chiaramente è un mio parere. Secondo l'UEFA, per esempio, non è così, eh? Perché si vede che non viene toccato il giocatore che poi ha fatto la finta. Se non viene toccato Dani Alves, allora ha ragione lei. Anzi, no, però poi c'è anche un'altra cosa. Ieri sera è finito 1-1. Con l'1-1 di ieri sera sarebbe passato il Real, senza contare che ieri sera il Real è stato annullato un gol regolarissimo. Ecco, sì. Io volevo solamente dire questo, perché le strategie nel calcio esistono. No, noi abbiamo giocato una finale di Coppa del Mondo nell'82, quando si è fatto male il nostro fantasista, il nostro numero 10, abbiamo messo un terzino e abbiamo vinto la partita. Certo. Anche perché c'erano 6 giocatori offensivi, no? che se vuole glieli ricordo, da Cabrini in avanti erano 6 giocatori offensivi, e Scirea e Bergomi, che era per l'appunto quello che sostituì Antonioni, il terzino che dice lei, palleggiarono in area con comodo prima del raddoppio di Cotto. Non è il numero di punte che fa lo spirito offensivo in una squadra, è il modo in cui questa squadra si pone in campo e cerca la porta avversaria. Lei ha dato una stupenda lettura di Real Barça, dei valori veri di Real Barça e di come doveva finire questa emblematica lettura, di come finire questa doppia sfida, in base a come la vediamo noi italiani malati di moviola, fasulla, intendiamoci, che è quella che poi falsa le immagini, e quindi, per carità, io le lascio la sua opinione. Le ricordo soltanto che la preparazione ideale della partita che Mourinho ha fatto ieri sera, per la partita di ieri sera, è iniziata nello spogliatoio della prima partita, con quella serie di porché. I porché, dal mio punto di vista, lei ha detto il suo, adesso io le dico il mio, i porché dal punto di vista hanno condizionato De Blecker e gli hanno suggerito di non espellere fin dalla metà del primo tempo Riccardo Carvalho, risparmiando poi nel secondo tempo il secondo cartellino anche a Lassana di Arrà e a un altro eventuale, ma ne sarebbe evidentemente bastato uno. Che poi la strategia di Mourinho di giocare per lo 0-0 in casa e l'1-1 fuori fosse un'eccellente strategia, nessuno lo discute. Se però la strategia passa per l'uso del randello sistematico in partite di Coppa Campioni, capita che ti buttino fuori i giocatori. È già successo in passato, non soltanto adesso, in occasione della congiura dell'UNICEF contro quel poveretto, no? Come è noto. Giuseppe da Napoli, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Allora, io sono autista, l'ascolto sempre di notte, sì, e non posso mai chiamare, però sono 3 minuti che ci provo. Sì. Allora, io vorrei sapere una cosa, perché ce l'ha a morte con Mourinho? Ma non ce l'ha a morte con Mourinho, è Mourinho che ce l'ha a morte con il calcio, no, l'educazione. No, non è vero, non ma come è vero. No? Ce l'ha a morte con il calcio, l'educazione, il buon gusto rispetto all'avversario. E quindi, dato che invece io ho passato buona parte della mia vita a cercare di seguire, di incoraggiare, di parlare semplicemente di calcio educato in cui c'è rispetto, indipendentemente poi da vincere o perdere, anzi a maggior ragione, in cui c'è rispetto innanzitutto degli avversari, delle opinioni altrui, degli arbitri, delle regole, una persona del genere la trovo negativa al massimo per il calcio, per il mondo del calcio e per quel poco di civiltà che nel calcio rimane e che da Mourinho in avanti è diminuito ancora. Tutto qua, questa è la ragione per cui, ed è semplicissimo, ma non dica non dica che sono io, anzi che siamo noi, in Spagna stanno fondando un partito, credo, ancora un po', che siamo noi ad aversela con Mourinho. È Mourinho che ce l'ha con tutti noi, questo almeno lo conceda. Sento una sottosigla, sì, vuol dire che siamo in chiusura, mi spiace, avevo delle mail molto belle ancora da leggere e molti sms. Vanno a domani, puntata che sarà dedicata a le quote, insomma i quattrini che i diritti televisivi danno a tutte le singole società e in più al futuro tutto da discutere della società Calcio Napoli, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista per l'appunto societario, con l'aiuto di Marco Bellinazzo. Buon pomeriggio, grazie a Pietro Lacorte in regia e a Franco Piantanini in redazione.